Sì, mi viene una domanda. Tu dicevi il fatto di isolare e reificare gli oggetti porta gli oggetti a diventare delle merci. Non mi è chiaro come invece il non farlo non lo faccia cadere Sì. questo. Allora, se io guardo un albero e lo distingo da me, e lo distingo dalla montagna, lo distingo da un altro uomo, però non lo separo da me, non lo separo da un altro uomo, cosa succede? Che io nei confronti dell'albero avrò rispetto, lo stesso rispetto che ho per me, per gli altri esseri umani, per le piante, per, in generale per le piante, per gli esseri viventi. Cioè, il fatto di isolare fa sì che ciò che noi percepiamo come separato da noi diventa qualcosa di manipolabile, di posso bruciare, posso far qualcosa, Sfruttabile, ah, sfruttabile. ok, adesso mi è chiaro. Faccio un esempio. Si dice che le strutture narcisistiche sono in grado di trattare, quelle gravi, sono in grado di trattare gli esseri umani proprio come degli oggetti. Ci sono dei casi in cui, non so, dei barboni vengono bruciati vivi da dei giovani, ecco così. E si dice, ma com'è possibile? Beh, è evidente, c'è una rottura dell'empatia. Cioè viene, beh, tutti noi prendiamo un pezzo di legno e lo buttiamo nel caminetto, non è mica una cosa strana, ecco. E loro trattano un essere umano come fosse un pezzo di legno. Questo fa scalpore, ovviamente, ci fa orrore e così via. Bene, via via che la coscienza umana andrà avanti, avremo un orrore minore, ma comunque una certa attenzione, non solo per gli esseri umani, perché non, ma anche per gli altri esseri che umani non sono, a partire dagli animali che stiamo trattando in un modo indegno di una specie intelligente, come si diciamo di essere, figli di Dio, come diciamo di essere, e tutta la Terra come la stiamo trattando. Allora, noi adesso qui apro proprio il tema dell'ecologia. Ci sono due tipi di ecologia, l'ecologia superficiale, che è quella che è nota a tutti e oggi è diventata ben di moda, insomma, ci sono anche i partiti ecologisti. L'ecologia, perché cosa prevede? Prevede l'ecologia, i partiti ecologisti vogliono che si faccia una legislazione per rispettare l'ambiente, cioè che ci siano delle leggi che fanno sì che noi rispettiamo l'ambiente, rispettiamo gli alberi, gli animali e così via. Sempre allo scopo perché ci siamo resi conto che non rispettandolo stiamo distruggendoci come persone. Questa è l'ecologia superficiale. L'ecologia profonda significa che io rispetto l'ambiente come rispetto i miei piedi e le mie mani, perché siamo interconnessi. Se l'ambiente viene distrutto, vengo distrutto anch'io, ma non è qualcosa che mi deve venire detto da fuori, ed è tutto ovvio. Ecco. E questo lo sapevano molto bene gli indiani d'America. È famosa la lettera del capo Seattle al presidente degli Stati Uniti, quando il presidente degli Stati Uniti diceva volevano comprare un territorio degli indiani. Disse: ma cosa vuol dire comprare? Cosa mi compri un braccio, mi compri una spalla, mi compri un occhio? Ecco, è chiaro la Sì. risposta? Fermiamo.